Good morning everyone. Vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Scusa Pardo, correggimi se sbaglio, ma non si dice good morning everybody? Good morning everybody o everyone? Com'era? Everyone. Vabbè, la diamo però, per buona quella di ieri. Comunque Everyone, everybody good morning alle 2 del pomeriggio è un po' tanto, se non per quelli che sono andati a dormire all'alba. E senti, oggi è giorno delle prime parole di Pioli in nerazzurro. Già detto a Inter Channel, test al derby, forza Inter, felice di essere qui, voglio una squadra piena di passione. Ci ha rubato il vecchio slogan, la passione si sente, poi lo ascolteremo. È anche tempo di nazionale, della nazionale dei ragazzini. Ieri ne abbiamo parlato a lungo. Sentiamo però la benedizione pontificia di Giovanni Trapattoni a Stefano Pioli. Beh, dissi già una volta a un nostro giovane collega di non guardare ciò che scrivono e dicono, perché l'Inter è una centrifuga, quindi se si lascia centrifugare rischia di perdere le nozioni e cognizione di se stesso e di ciò che deve fare. Ma io credo che innanzitutto capirà, e senz'altro oramai è esperto, e se è in grado di incidere su quello che è il suo progetto. Però tenga presente, caro Stefano, che il risultato conta più di quello che è poi la teoria, quindi punta al risultato, che sicuramente creerà entusiasmo e convinzione. Occhio al risultato, ecco la benedizione pontificio di Trapattoni a Stefano Pioli. 800 24 00 24, per parlare di ogni argomento sportivo siete sempre tutti convocati. Mi sembra saggia la benedizione del Trap, l'Inter è una centrifuga e occhio al risultato. Questo è il sunto. Beh, ok, il risultato vale ovunque, vale sempre. Qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto quando è arrivato De Boer. È chiaro che l'Inter è una grande squadra, una grande società che ha vinto tanto nella sua storia, con una grande tradizione, tantissimi tifosi, e quindi in un momento come questo, in cui le cose non vanno bene, la pressione è certamente superiore rispetto ad altri ambiti. Più pressione significa meno tempo, quindi per Pioli vale lo stesso discorso che facciamo per De Boer, con la differenza che ovviamente ha una expertise, un know-how, a una conoscenza del nostro calcio che potrebbe dargli una mano, del calcio, dei giocatori, e quindi questo sicuramente è l'elemento che ha portato a questo tipo di scelta, se non è una scelta logica, razionale. Sì. Trump vuole comprare l'Inter, saremo fortissimi, manca solo questo. Mi scrive un ascoltatore su WhatsApp 349-238-6666. In questo mondo trumpizzato ormai, la nazionale italiana affronta il Liechtenstein, che non può essere ovviamente un problema. Sentiamo Verratti e poi ti chiedo, Pierluigi, che cosa ti aspetti dai bambini contro la Germania? Quando vedo l'età dei miei compagni mi sento ancora più vecchio di quello che veramente ho, e quindi questo è anche un po' mi responsabilizza, perché comunque so che noi, soprattutto quelli che sono ancora più vecchietti di me, sono degli esempi per tutti i giocatori. Posso parlare di Gigi, posso parlare di Daniele, sono veramente esempi per l'Italia, sono esempi che tutti i giovani dobbiamo seguire. Mi fa uno strano effetto vedere Verratti che pronuncia queste parole, vederlo in TV con quella faccia da bambino proprio. Dire io ormai sono uno degli anziani in questa nazionale. Sì, è parzialmente vero. Innanzitutto sul Liechtenstein stiamo attenti, è banale dirlo, ma nel calcio di oggi, soprattutto fuori casa, veramente rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, ogni partita ha un suo margine di rischio. In questo caso è poco, però io credo che, visto che questa è una nazionale che ancora non è completamente risolta, secondo me non sta facendo male, sta beccando un sacco di critiche, perché Ventura da questo punto di vista è un obiettivo un po' più facile rispetto a chi l'ha preceduto. Certo. È chiaro che c'è qualche scetticismo in più e le critiche sono giuste, per carità, però ecco, attenzione, perché sono 3 punti che servono e sono fondamentali. Poi c'è un'amichevole potenzialmente, voglio pensare positivo, nel senso che il fatto di sceglierci delle avversarie forti può anche essere uno strumento utile per misurare il sasso. Però qui mancano minuti di esperienza, mancano totalmente esperienza, minuti di esperienza internazionale, e sono cose che rischiano di pesare. Cioè non possiamo con tutto il bene che vogliamo a Ventura e a questi ragazzini che ci danno una luce nuova, ne parlavamo ieri, tanto che io penso sia un momento estremamente intrigante, estremamente interessante questo per il calcio italiano. Però giocare contro la Germania è un rischio grosso per una nazionale così verde. Che facciamo? Vogliamo non andare a martedì? Non ci presentiamo. Mandiamo certificato medico. È chiaro che è un rischio. Ma sì, ma la parte è amichevole, non muore nessuno. Questo va detto. E poi non è un'occasione. È un'occasione per misurare il tasso di crescita e di esperienza della nostra squadra. Nessuno pretende di andare contro la Germania a vincere 3-0 martedì, si pretende di vedere un'idea di gioco, ed è una delle rare occasioni che Ventura ha a disposizione senza l'assillo del risultato per sperimentare qualcosa di nuovo. Io penso che, insomma, sinceramente fino ad oggi il percorso sia un percorso in linea con le nostre possibilità e con le attese. Ce la siamo vista brutta in Macedonia, sicuramente ce la siamo vista brutta dopo quell'errore contro la Spagna, ma alla fine abbiamo portato a casa un risultato che ci consente di pensare positivo. Certo, la favorita per arrivare prima nel nostro girone è la Spagna, non c'è dubbio, però è anche logico che sia così probabilmente, no? Se guardiamo il movimento calcistico spagnolo. Ventura, questo va detto, si trova di fronte forse all'impresa più difficile degli ultimi 10-15 anni della nazionale, perché mai come questa volta passare il turno da primi è complicato, e quindi insomma, ma lo sapeva pure lui nel momento di accettare questa sfida. Però, ma certo, lo sapeva pure lui. Le cose che non vanno, ma un po' d'equilibrio, perché secondo me finora siamo on track, come direbbe sempre Bobo Vieri. Senti, on track, è arrivato qui Giorgio De Luca in studio, mi sta scrivendo una velina. Cosa stai scrivendo, De Luca? Che stai a scrivere? I file di Pioli da mandare dopo. I file di Pioli da mandare dopo, va bene. Allora, mi sta scrivendo i file di Pioli da mandare dopo. Aspettiamo, becca l'osso dal telefono e Cruciani che mi ha detto che passa per parlare di questo argomento. Aspetto anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, siamo qui. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Vieri. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Convocati. Tanto questa notte, ragazzi, c'è altro che l'Italia contro Liechtenstein, c'è Brasile e Argentina a 00:45 ora italiana. Io la vedo. Ragazzi, Giuseppe Cruciani è arrivato adesso. Pardo. Eccolo. Aspetta che mette la cuffia. Eccolo qui, ce l'hai. Com'è il volume di Pardo? No, stavo valutando, ma che tanto adesso per i prossimi 2 mesi Cruciani c'ha quasi niente da fare, quindi siamo, no? Perché in questo mondo trampizzato non ha quasi niente da fare. Non segue Carlo gli sviluppi mediatici delle elezioni di Trump, che mi interessano. Guarda che lancia il sasso e adesso nasconde la mano. No, che lancio il sasso? Ho detto astinenza per 2 mesi e 2 mesi sarà così, ma non è una cosa malvagia. Lunghi. No, ma fa bene. Tra due mesi lo racconti a me. È ancora più carico. Esatto, bravo. Tra 2 mesi non puoi girare per strada, quindi attenzione. Vabbè, vedi tu come sento che la linea telefonica di Pardo è sempre precaria. No, è buona. Adesso aspetta, arrivo. Allora. Senti, ma sul casting dell'Inter io non ho ancora sentito la tua pubblica. Quale casting? Il casting degli allenatori. Non so nulla. Ah, vabbè, è roba vecchia ormai. Ragazzi, non ti ho più sentito. Nella ridicolaggine totale della situazione su cui già abbiamo parlato a lungo, di una situazione patetica e ridicola che è iniziata a luglio con i dubbi su Mancini ed è proseguita poi fino adesso, dunque sono passati ormai praticamente più di 4 mesi. In questi 4 mesi di caos infinito, ridicolo, patetico, l'abbiamo già detto, ecco, c'è però adesso una certezza che spero si mantenga tale, cioè spero che non ci sia retropensiero da parte di qualcuno, che vediamo come va Pioli e comunque abbiamo la carta Simeone, che è quello che tutti pensano, no? Sì, certo. Ecco, la speranza per l'Inter, ovviamente, a me non me ne frega assolutamente nulla, è che non ci sia questo retropensiero, perché se comincia, cioè non è che ci si può aspettare che questo arriva e tornano risultati fantastici immediatamente, magari succede, No, però che succeda qualcosa di normale, quantomeno. Sì, ci si aspetta. La normalità è solo l'uomo al comando, è solo uno che decide, almeno tecnicamente, è solo uno che ha il carisma per non far sbandare la squadra. Cioè, quello serve all'Inter in questo momento. Serve una situazione di normalità, di tranquillità, di guida tecnica sicura, eccetera, eccetera. Che tutto questo comporti anche i risultati, questo non lo sappiamo, che tutto questo comporti anche i risultati. Mm-hmm. Per cui non vorrei che magari di fronte a qualche incertezza di risultati, che ci può essere a prescindere da Pioli e a prescindere da come Pioli, da quello che Pioli farà, non vorrei che poi cominciassero altri dubbi, perché all'Inter va così, cioè si inizia dicendo quello è il top, quello è il massimo, è la soluzione. Non guardate le parole adesso, Pardo lo sa bene, le parole che vengono pronunciate in queste ore sono tutte inutili e sono le parole classiche di ogni cambio di allenatore in qualsiasi squadra. Dunque cancellatele queste parole di questi giorni. Io le cancello, poi ve le faccio sentire, le cancelliamo dalla memoria. Sentiamole pro forma. No, ti faccio sentire questa. Fammi sentire. È stata la mia prima partita da ragazzino, perché tutta la famiglia era interista, quindi è un bellissimo ricordo. E sono cresciuto col coro con Beccalossi e Pasinato, vinceremo il campionato, e poi dopo poi è chiaro che la mia professione poi mi ha portato da altre parti, però la fede era quella. La figlia di Beccalossi ce l'abbiamo qua, quindi insomma, qua di fronte. No, non è qua di fronte, qua è il telefono. Ciao, buongiorno. Ciao. Ma Nagaia dov'è? Dov'è Nagaia? Al lavoro, io sono in giro con le mie cose. No, allora però ragazzi, siamo chiari. Adesso queste frasi dette a favore del pubblico, a favore della tifoseria, eccetera, io ho grande ammirazione di Pioli, perché prima è un grande ascoltatore della Zanzara, da quello che so. Sì, da lo tanti so, anni. Anche di tutti i convocati, ci ascolta ogni giorno. Va benissimo, è una persona di grande intelligenza, è una persona estremamente, secondo me, competente nel suo lavoro. Tutto questo non significa che ci saranno risultati subito, perché ci sono degli allenatori bravi che ogni tanto trovano delle situazioni che non possono risolvere. Adesso questa cosa qui, lui ha ricordato questa cosa, fa parte di quelle dichiarazioni immediate che ci sono ogni volta che un allenatore entra in carica per farsi ben volere, per farsi accettare bene dal pubblico. Io non lo considererei nemmeno, no? Io non credo che Beccalossi non sia nemmeno contento di queste cose, che se ne frega totalmente, no Beck? Te ne freghi totalmente, Beck. No, è che probabilmente tanti ci hanno giocato con queste frasi. Lui ha espresso un desiderio che la prima volta la sua famiglia era interista, l'ha portato a Bologna e quindi non è che se l'è preparata. Ha sottolineato un dato di fatto, che poi il percorso professionale ha preso. Forse non va bene, perché probabilmente ha detto una cosa spontanea e sicura, e magari tanti altri, a seconda delle squadre che andavano, faceva comodo che da piccolini erano tifosi di questa o quell'altra squadra. Quindi, quante volte l'abbiamo sentito dire, Beck? Esatto, tutti da piccolini si era. Però secondo me è stata carina, perché lui ha detto la prima volta destino che sono andato a vedere Bologna-Inter e cantavano quel coro lì, quindi... No, ma infatti non è, diciamo, quello non quello è... Quello forte era Pasinato, Cruciani, ecco, dov'era l'errore di quei due lì? Ero io, chiaramente. No, vabbè, però, ragazzi, queste sono cose che... Ho notato con grande piacere che avete sottolineato la normalità. Sì. Questa è la prima cosa di... Certo. Questo è evidente. C'è un lavoro da fare... Ma nella normalità, perché nel calcio devi preparare le cose, creare le premesse per andare a fare un risultato. Quindi mi aspetto che si faccia quel tipo di lavoro lì, ma non sarà facile. Io mi auguro che vada bene, perché conosce il campionato, è un allenatore che ha una grande chance, si è buttato subito con grande entusiasmo e adesso c'è da fare quelle due o tre cose importanti per cercare di fare i risultati. Sì, ma questo, la normalità infatti è un concetto fondamentale, ma perché soprattutto è la normalità che serve all'Inter. Quando l'Inter è stata normale, quando c'era un uomo in charge, come si dice, quando c'era uno con i pieni poteri che decideva, come nel caso del tuo amato Mourinho, con cui so che ti senti ogni tanto, allora all'Inter sono arrivati i risultati. Quando manca un punto, un centro di gravità, e ancora secondo me non c'è a livello societario, anche se alcune cose sono state chiarite in queste ore, allora lì iniziano i problemi. sinceramente, con tutto l'affetto per Pioli, che ripeto, è un bravissimo allenatore, tra virgolette, normale, nel senso che uno bravo, preparato, che ha ottenuto grandi risultati. Però l'Inter le cose migliori le ha fatte con un signore che si chiama Mourinho, in un momento nel quale c'era anche, diciamolo, un vuoto delle altre due grandi storiche del nostro calcio. L'Inter sarà bravissima ad approfittare di tutto quello, ha fatto benissimo in quegli anni e ha avuto bisogno di una figura carismatica come quella di José Mourinho, che faceva il presidente, faceva l'allenatore, faceva il dirigente, faceva l'addetto stampa, faceva tutto. Sì, ecco, questo secondo me ad oggi non è Pioli, ma non perché, cioè, di Mourinho ce n'è uno da questo punto di vista, o Capello poteva essere negli anni, qualche anno fa, una figura assimilabile a tutto questo. Ecco, la figura del maschio alfa, dell'uomo che ti sistema le cose, dell'uomo che ti mette a posto gli juventini, no, quando Pioli, sfottono, i milanisti quando sfottono, ecco, questa cosa qui, non, secondo me, ad oggi... No, ma infatti non dico che ci vuole... Ma infatti è una scelta in corsa, no, Non dico che ci vuole solo quello, no? Certo, questo potrebbe appartenere, per esempio, al profilo di Simeone, quello che dici tu, no? Va bene, ma non è che puoi prendere oggi Simeone, Giuseppe. No, però... Questa però, è una scelta emergenziale, queste cose forse le sa più Beccalossi di noi. Io credo, io sono sicuro che nel retropensiero di diversi dirigenti dell'Inter, in particolare di uno che sappiamo, cioè del vicepresidente, c'è l'idea che prima o poi Simeone si romperà le balle di non vincere la Champions League con l'Atletico Madrid, ha fatto quello che ha fatto l'Atletico Madrid e sia pronto per l'Inter, che è per lui magari una sfida che riguarda il passato e tante cose, perché è uno che ragiona anche su un'adrenalina e non solo sui quattrini, Simeone, no? Cioè, beh, è una sfida bellissima l'Inter, eh? Adesso con gli occhi che di dici, Simeone. Becca, c'è questo retropensiero o no nei dirigenti dell'Inter, in particolare di Zanetti? Ma ognuno può avere i pensieri che vuole, però credo che in questo momento non sia giusto, perché al di là del contratto di questi sei mesi più un anno, chi prende in mano l'Inter prima di tutto deve capire la situazione. Poi sono convinto che se uno si isola con la propria squadra, tocca le corde giuste per i giocatori, per farli cercare di rendere al meglio, perché poi ci sarà un'altra situazione, secondo me, vedere anche il potenziale di questa squadra, perché io non dimentico che 4 mesi fa tutti a fare i fenomeni, a dire l'Inter come rosa è seconda solo alla Juventus. Beh, io sono ancora d'accordo, Beck. Ecco, allora, io la penso ancora così, eh. Però bisogna mettere insieme, bisogna fargli capire cosa vuol dire fare un percorso assieme con la maglia dell'Inter, quindi sono tutti passi che bisogna fare. Poi se uno va bene e tu fai il risultato, non è che ti alzi la mattina e dire... No, e dire, ma chiaro, ma l'altro giorno è intervenuto Riccardo Ferri e ha detto questi qui bisogna prenderli, appenderli al muro, io mi candido. Bah. Io non lo so se questa scelta trampista sia quella ideale. Cioè, per esempio, io sono sempre io credo che nello spogliatoio chi è il comandante deve essere lui a determinare e capire chi sposa la tua causa. Perché i giocatori, io ho avuto la fortuna di fare anche il giocatore, cioè, ma se mi toccavano le corde giuste, tu andavi oltre. In questo momento bisogna tornare a correre, trovare l'equilibrio di squadra e a livello tattico dare un'identità. Sì, ma questo non ci dico. Beck, ti posso dire una cosa? Secondo me le cose sono abbastanza semplici. Perché un anno e mezzo? Perché è evidente che Pioli non avrebbe accettato solo 6 mesi. Primo. Altrimenti gli avrebbero fatto un contratto di 6 mesi, questo è quello che penso io. Ma chi è che accettava 6 mesi? Esatto. Accettava 6 mesi. Aspetta un attimo, le cose sono abbastanza semplici. C'è una situazione, come dire, dietro la Juventus, anche se neppure la Juventus, come dire, è da questo punto di vista solidissima, ha perso già 2 partite, quello che sappiamo, abbastanza magmatica, cioè non è impossibile per l'Inter, se ritrova la quadra con l'organico che ha, aspirare a quello che deve aspirare l'Inter, cioè dire a battersi, almeno battersi, poi sai, riuscire un'altra cosa, a un posto in Champions League. Allora le cose secondo me sono abbastanza evidenti, cioè o Pioli riesce a mettere in piedi una situazione tale per cui l'Inter si batte fino all'ultima giornata o giù di lì per arrivare in Champions League, oppure credo che è evidente che poi alla fine i dirigenti dell'Inter, di fronte ad un'altra possibile scelta, per esempio quella di Simeone, sceglieranno un'altra roba. Questo non c'è dubbio, l'obiettivo di Pioli non è ricostruire lo spirito dell'Inter, questo tutte parole così, cioè lo spirito di squadra, questa è la premessa per arrivare a una sola cosa, battersi fino all'ultima giornata, almeno battersi lui, per provare a arrivare l'ha detto Champions. Anche lui, sentiamo, l'ha detto anche lui oggi. Sarei contento se ottenessimo la Champions League, perché credo che comunque ci sono tante partite da giocare, mancano più di un terzo del campionato, L'anno scorso credo a questo punto l'Inter fosse prima in classifica dopo 12 giornate di campionato e poi sappiamo come si è posizionata, la Juventus credo che fosse a 9 punti credo dalla prima in classifica e poi sappiamo che ha vinto il campionato. Non sono qui a vendere facili illusioni, non so quanto ci metteremo, non sarà facile recuperare posizioni, ma credo che c'è tutto il tempo e tutte le possibilità per l'Inter per centrare l'obiettivo che si era prefissato all'inizio della stagione, che la proprietà vuole e che l'allenatore vuole raggiungere. Mi sembra chiaro che Pioli è un allenatore legato, al di là del contratto e sono solo numeri, al risultato, cioè o arriva in Champions League o verrà sostituito. Ora saluto Evaristo Beccalossi, tu che fai? Qualche minuto resto. Qualche minuto resti, Pierluigi Pardo resta, Borsa torniamo. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Io mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. Allora, ancora qualche minuto con Giuseppe Cruciani, Zara, che tutti conoscono, Pierluigi Pardo al telefono, Stefano Dal Treviso collegato, c'è chi scrive appenderli al muro, lo disse anche Lippi a Reggio Calabria, no, Lippi disse prenderli a calci nel culo, è diverso, il concetto è lo stesso, il giorno dopo non serve a nulla. Fu esonerato. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io parto da lontano, 1973 Mario Corso passò dall'Inter al Genoa. Nell'ottobre, prima di campionato, Genoa-Inter, io ero sotto l'acqua a vedere Mario Corso perché mio papà era un grandissimo appassionato di Mario Corso, quindi pre-Beccalossi, pre-Pasinato, pre-tutto. Allora, io volevo dire che da grandissimo appassionato, comunque sei abbonato all'Inter, erano anni che non vedevo l'Inter giocare in attacco, almeno in attacco, bene come quest'anno con l'olandese. E francamente mi dispiace che l'olandese sia andato via, nonostante non capisse del campionato italiano, così, ma almeno in qualche modo, in qualche frangente ci si divertiva. Anche gli altri, certo, assolutamente. Però volevo fare un appunto alla curva dell'Inter, perché la curva dell'Inter ha preso una posizione nei confronti di Icardi non piacevolissima, e l'ultima partita domenica scorsa col Crotone, partita difficile, vinta con fatica, tutto quello che vogliamo, il buon Maurizio fa due gol e quelli fanno orecchie da mercante. Allora, o si va tutti dalla stessa parte oppure non si va da nessuna parte. Secondo me si va dalla parte di non dare troppo ascolto a quelli che si siedono in curva. Secondo me quella è l'unica parte da cui andare. Posso dire, non devo fare l'avvocato difensore delle curve, anche perché insomma quella vicenda rimane poco chiara, però voglio dire, la curva essenzialmente ha preso una posizione che è quella di dire Icardi non ha i valori morali eccetera per poter avere la fascia da capitano. Non è che ha detto che non vuole Icardi, ce ne faremo una ragione, però voglio dire, non mi sembra che adesso la curva dell'Inter non debba esultare se segna Icardi. Semplicemente su quella vicenda lì ha detto delle cose, poi una parte dello stadio invece ne ha detto il contrario, rimane aperto il dibattito. Quell'unica cosa certa è che Icardi è il centro del gioco offensivo dell'Inter ed è uno dei migliori attaccanti. Se la curva pensa che Icardi non fa più parte dell'Inter eccetera, una dirigenza dovrebbe dire chi se ne frega, non dice neanche questo, ma infatti lo hanno comunicato in maniera abbastanza chiara che Icardi per loro non è più il capitano dell'Inter, non lo riconoscono come tale. Il capitano sì, più o meno, come dire, lo hanno delegittimato come giocatore. Dopodiché, se continua a segnare, sono sicuro che siccome questi signori qui sono anche un po' vigliacchetti da questo punto di vista, poi saltano sul carro improvvisamente, vedrai che saltano sul carro, cioè se questo ma segna non credo, il giocatore più forte che ha l'Inter, ma di cosa stiamo parlando? Non credo che salteranno sul carro, cioè io non penso che il rapporto fra la curva e Icardi adesso migliori perché Icardi fa due tre. Comunque non è un problema dell'Inter, l'ascoltatore ci scuserà, ma non è un problema dell'Inter. No, non è un problema dell'Inter, e l'errore clamoroso che l'Inter avrebbe potuto fare, pare che la situazione si sia comunque rimessa in barra, è quella di pensare addirittura a una cessione, a un'incompatibilità ambientale, ecco, perché dover vendere un giocatore così, essere costretti a venderlo perché non ci sono le condizioni ambientali, quella sarebbe stata una clamorosa sconfitta da parte dell'Inter. Ma questo l'abbiamo ripetuto moltissime volte, no? Infatti quella fascia gialla è rimasta sul braccio sinistro, esatto, di Icardi. È finita, sarà luce e vino, dai, su. Sì, io vorrei, prima di salutare Giuseppe Cruciani e lasciare andare i suoi impegni, c'è Alessandro Alciato al telefono, vorrei sentire che cosa pensi di questa nazionale dei ragazzini, Giuseppe. So che sei grande nazionale? Tifoso. Ah sì, io sono grande tifoso della nazionale, sì. Ma per me, come sai, le qualificazioni, tutta questa roba qui, le odio. Le odio, cioè le considero delle cose inutili, considero una follia il fatto che ci sia una sola squadra nel girone a qualificarsi e l'Italia possa non qualificarsi. Considero tutto questo un baraccone che prima o poi chiuderà. Mi dispiace per Sky che trasmette in esclusiva le qualificazioni dei mondiali, ma penso che le qualificazioni sia mondiali che gli europei siano una roba da abolire, perché il calcio ha troppi impegni, giustamente i calciatori poi si infortunano e le società che le pagano si incazzano, e dunque penso che è giusto provare sempre, in questo caso con Liechtenstein magari proverà di meno, forse proverà di meno pure con la Germania, ha detto Ventura, perché con la Germania non si può improvvisare. Nazionale dei ragazzini, io credo che alla fine giocheranno però quelli migliori in questo momento, non è che può sperimentare né con la Germania rischiando, appunto, una figuraccia a Milano, né magari ridursi agli ultimi minuti per battere Liechtenstein, speriamo di no, come è successo. Anche se poi credo che i gol, questo Alessandro mi può aiutare sicuramente, i gol che faremo con Liechtenstein, se Liechtenstein arriverà ultimo, credo che saranno anche inutili, no? Cioè è importante vincere, se non mi sbaglio, Alessandro, no? Beh, conta però la differenza reti, perché la Spagna ne ha fatti 8 contro il Liechtenstein, e allora nel momento in cui dovesse essere importante la differenza reti, allora... No, ma credo che venga tolta la differenza reti con l'ultima del girone, se non mi sbaglio, altre volte è stato così, perché spesso poi appunto contavano all'ultima giornata i gol fatti con le squadre, diciamo, cosiddette inferiori, e credo che da un po' di tempo a questa parte non valgano più per la differenza reti, se non vale la differenza, cioè, reti contro San Marino lì, se stane così con l'ultima del girone, credo che non si contino, non vorrei dire allora una castroneria, però ti dico che in questo momento, in questi giorni, anche Verratti, sì, in conferenza stampa poco fa, hanno sottolineato l'importanza di segnare e segnare tanto. Può darsi che abbia ragione tu, adesso io non te lo so dire. No, però guarda, io poi sul regolamento non è che sia fortissimo, diciamo così, però vedo che ne parlano tantissimo di questa. Dunque ci deve essere importante, dici. E quindi sì, immagino di... Comunque è chiaro che non vinceremo 8-0 con l'Inter. L'Italia è uno scontro diretto. No, ma l'Italia sì, in caso di scontro diretto, in caso di arrivo a pari punti, vale innanzitutto lo scontro diretto, certo, però dici, certo, in ultima ratio vale la differenza. Però se pareggi in Spagna, siccome nello scontro diretto non valgono i gol fuori casa, diciamo, se pareggi anche 2-2 in Spagna l'ultima giornata, sì, cioè, è uguale. Non è così impossibile che si debba fare ricorso alla differenza reti. No, quello no, però bisogna vedere quali sono le partite in cui conta la differenza reti, cioè se vale anche con l'ultima del girone oppure no, ma insomma adesso stiamo parlando veramente di una cosa di regolamento. Avanti. Sì, no, a mio parere l'Italia in questo momento non è in grado di fare i gol che ha fatto la Spagna a Liechtenstein. Cioè, no, la mia impressione è quella là. In altri periodi l'Italia poi nelle qualificazioni non ha mai fatto valangate di gol contro le squadre minori, mai, anche mai nella storia. In tutte le epoche siamo sempre andati a giocare delle partite, magari abbiamo vinto 2-0, 3-0, ma non abbiamo mai fatto cappotto come hanno fatto, capito, altre squadre. No, Alessandro, sbaglio? No, esattamente così. Infatti storicamente non è una squadra l'Italia che può vincere con tanti gol, diciamo l'ultimo importante sono stati 5 segnati contro le Faroe, ma sì, un 8-0, cioè, mi stupirei di vederlo. Prima parlavi di una nazionale dove non ci saranno tanti giovani, qualcuno in realtà ci sarà nella formazione titolare, ma è proprio il momento, considerando il numero degli infortunati, sono state anche delle convocazioni importanti se vuoi ringiovanire la rosa, studiate, ma è stato accelerato questo processo, perché gli infortunati sono tantissimi, da Chiellini a Barzagli in difesa, da Florenzi, insomma tutta gente che ci sarebbe stata. E allora sicuramente, ad esempio, la difesa 4 ci sarà Zappacosta, che è una novità fra i titolari. Davanti Veloso ormai è una certezza e sarà in coppia con Immobile, con Candreva da una parte e Bonaventura dall'altra, perché ormai si cambia sistema di gioco e si passa al 4-2-4. Diciamo che c'è stato del coraggio per quanto riguarda le convocazioni di Ventura nelle sue scelte, ma è un coraggio anche indotto dalla situazione che si è trovato a dover affrontare, perché gli infortunati sono tantissimi, compresi quelli insomma che sono venuti a Coverciano. Mi viene in mente Marchisio, mi viene in mente Gabbiadini, ma che poi sono stati costretti a ritornare uno a Torino e l'altro a Napoli. La posso dire una cosa prima che se ne vada Pardo, perché forse ho seguito poco nei giorni scorsi, ma ho trovato abbastanza sorprendente quello che ha detto Ventura su Balotelli, forse ne avete parlato già ieri, non lo so, perché adesso o ci dice cosa c'è sotto, oppure è davvero inspiegabile che la Padula sì e Balotelli no. Cioè, Balotelli è uno che ha esperienza internazionale, gioca in una squadra che si batte per i primi posti in classifica in Francia, gioca l'Europa League. Ora, la Padula, con tutto il bene, uno può volere alla Padula, per carità, cioè, non è 156 che sto dicendo, minuti in Serie A, non è che sto dicendo che la Padula non ha diritto ad andare in nazionale, assolutamente no, però francamente, se devo fare una scelta, allora o c'è dietro una pressione di qualcuno all'interno della squadra che gli dice noi Balotelli non lo vogliamo, cioè allora che venga fuori questa cosa, oppure il fatto che venga preferito la Padula a Balotelli in questo momento, con tutta la moria di cui ci parlava prima Alessandro, lo trovo francamente una cosa la prima, secondo me la prima che hai detto, cioè i giocatori, alcuni che non lo vogliono, vecchia guardia che sì, dice no, ma secondo me la cosa è questa, che il ritorno in nazionale di Balotelli in qualche modo dovrà essere preparato. Ma che vuol dire? Ma è una cosa sì, ho assurda. Capito quello che dici tu, ma è una cosa assurda, no, cioè è ancora più assurdo il dover in dire, poi ci parleremo. C'è una paura da parte di Ventura in questo momento. Lui dice anche pubblicamente, ma anche non pubblicamente, sono troppo pochi, 2 mesi perché un giocatore cambi. Lui ha paura, insomma, che venga in nazionale Balotelli e che faccia una balotellata. Però io penso anche che, insomma, uno non cambia 26 anni, non cambia 30, non cambia in 2 mesi, ma non cambia in 5 anni. Però scusami, sì, prendere lo so. O lasciare? No, però al di là di questo, sì, ma in questo momento, Ale, cioè, non mi sembra che ci siano segnali di balotellate negli ultimi mesi. Cioè, non si è messo a fare. Cioè, non si è messo a pisello di fuori sul lungomare di Nizza. Ma cioè, soprattutto a noi Balotelli, a noi nazionale Balotelli, non ci serve che sia per 9 mesi in bolla perfettamente preciso. A noi ci serve che faccia nel mese della fase finale di un europeo, di un mondiale, bravo, quello che deve fare. Cioè, no, ma secondo me c'è veramente un pregiudizio, che forse è anche una roba che riguarda Raiola, non so che cosa, i rapporti. Non lo so, c'è qualcosa che non sappiamo, perché è evidente che c'è qualcosa che non sappiamo, oppure un allenatore che non si vuole prendere il rischio, come dice Ale, cosa possibile pure, perché un allenatore come Ventura, che già insomma non è sembrato sicurissimo, diciamo, nelle sorti nazionali, dice io non posso correre il rischio pure di prendere Balotelli e creare dei casini. Questo un Balotelli che, diciamo, non è in questo momento il Balotelli di qualche anno fa. Però ti ripeto, allora non mi puoi però convocare per la Padula, perché quello mi sembra veramente una roba senza alcun senso logico, cioè senza veramente alcun senso logico, perché non ci sono né i minuti né la continuità. Che cos'è, il colpo di tacco? Non penso che sia un colpo di tacco, perché l'esperienza internazionale, il progresso. Ma lì però si signori cerca. Devo fermarmi per il traffico, come sapete. Saluto. No, resto un attimo, dai. Resti mi sono appassionato alla nazionale. Benissimo, allora. Ale, che fai? Anch'io. Che fai? Lo liquidi, Ale? Che fai? Non liquidi. Ale, rimani. Anch'io. Rimaniamo tutti, dai, traffico. Rimaniamo. Un attimo solo, volentieri. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta convocati. Allora, giro finale di opinioni su tema Balotelli. Io la penso come Cruciani. Pardo è alciato, non lo so. Alcuni ascoltatori scrivono: Balotelli non lo vuole Buffon, che ha messo a colpa Super Mario per l'eliminazione dell'Italia da Brasile 2014. L'unico che ha segnato, invece di mettere la colpa sulle papere che Buffon ha fatto a Brasile 2014. Quindi il vostro pensiero su questo, ragazzi. Allora, io penso che innanzitutto che sicuramente c'è qualcosa dietro. Già il fatto stesso che Ventura dica prima di riportare Balotelli in nazionale dobbiamo sentirci, come se non ci fosse stato il tempo per sentirlo, per andarlo magari a trovare a Nizza, questo è abbastanza curioso, abbastanza particolare, ma racconta quello che non ci prendiamo in giro. Balotelli non è un giocatore normale, è un giocatore che deve essere reinserito nell'ambiente nazionale. Non è mica un tossicodipendente che ha bisogno di reinserimento attraverso una comunità di recupero. Ci mancherebbe. Però negli equilibri sottili di uno spogliatoio è una figura, ragazzi, perché Capello non è andato al quello mondiale? Quello stai dicendo. Non è andato al mondiale nel 2010. Parlo del 2006, dove assolutamente non meritava, ma nel 2010 ha fatto una stagione pazzesca. E però evidentemente era vissuto come un potenziale elemento di squilibrio per lo spogliatoio. Ci fidiamo di Lippi, certo ci fidiamo di Lippi, anche se poi nel 2010 è andata male, forse Cassano sarebbe stato utile. E qui è lo stesso ragionamento, no? Cioè è ovvio che Balotelli in questo momento ha un talento che potrebbe essere utile, però evidentemente non è un impatto zero come può essere quello di La Padula. Oltretutto, Però l'impatto zero in un momento come questo non so quanto possa valere. Alessandro Alciato. Io ho un pensiero preciso a questo proposito, che se invece del Liechtenstein ci fosse stata la Spagna piuttosto che l'Albania, e in questo girone sta andando bene, Balotelli ci sarebbe già stato in questo giro di convocazione. Mentre con Liechtenstein puoi anche permettersi di fare qualche esperimento in più. So per certo che è vero, Buffon, i vecchi dello spogliatoio qualche remora ce l'avevano, ma quella remora non esiste più e questi grandi vecchi, chiamiamoli così, dello spogliatoio l'hanno detto chiaramente a Ventura. È vero che Ventura anche in conferenza stampa ha detto un giocatore non cambia in due mesi, c'è questa paura di balotellate, però stiamo parlando di un giocatore, secondo me non cambia neanche in 5 anni, in 6 anni, in 10 anni, cioè Balotelli è questo, prendere o lasciare, giudichiamolo sul campo, e il campo sta dicendo che lui la nazionale se la sta riconquistando, perché magari il campionato francese non è il più difficile del mondo, però resta insomma un campionato in cui lui ha segnato 7 gol, un campionato in cui ha fatto innamorare i tifosi e un campionato insomma in cui il Nizza adesso può sognare di vincere alla fine della stagione. Quindi, d'accordissimo, insomma, d'accordissimo. Io ovviamente Alessandro conosce benissimo la nazionale e non so se quello che ha detto, la prima cosa che ha detto, sia in realtà più che una sensazione, una sua certezza, se ha delle fonti particolari, cioè se Balotelli convocato per partite più importanti sarebbe stato convocato senza Liechtenstein, perché ha la sensazione, è una sensazione questa, perché secondo me invece dovrebbe essere il contrario, logicamente, cioè se tu vuoi reinserire un giocatore lo chiami con Liechtenstein, magari segna 4 gol, Non so come dire, non è che lo chiami con la Germania, perché... però se vuoi chiamare La Padula che non ha mai giocato, vuoi farlo esordire, magari è più facile farlo esordire contro La Padula come gli altri giovani, contro il Liechtenstein piuttosto che contro la Spagna in casa della Spagna. Però io credo che in prospettiva sia più importante per la nazionale Balotelli che non la Padula, rebus sixtantibus. Vi saluto tutti, ragazzi. Mamma mia, come hai chiuso alla grande. Rebus sixtantibus. Siamo venuti i brividi. Mamma mia. Ciao ragazzi, ciao Ale, un bacio. Parezzo mica. Sono gli emuli. Torniamo. Parezzo non l'avrebbe detta. Più Natania, meno Parezzo. Via. Torniamo dopo GR. Tutti convocati. Questo fa fatica, ragazzi. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Andiamo, let's go! Tutti convocati. Cosa ha pensato quando ha visto accostato al suo nome il neologismo normalizzatore? Sono andato a ricercarlo sul dizionario, perché, ma non è un termine secondo me molto adatto, perché dice che è colui che riporta alla normalità, e l'Inter credo che non voglia la normalità, l'Inter voglia qualcosa in più, e io però sono un allenatore che cerco di fare al meglio il mio lavoro e cerco di sviluppare al meglio tutto il potenziale che abbiamo a disposizione. Io credo di avere un potenziale importante. Spero che a fine stagione possiate dire che invece di un normalizzatore posso essere un potenziatore. Questo ovviamente era Stefano Pioli nella conferenza stampa di presentazione all'Inter. Vedo che l'argomento Balotelli ha scaldato l'arena. Balotelli serve alla nazionale quanto la carie ai denti, scrive un ascoltatore su WhatsApp 349-238-6666. Ce ne sono molti altri, ma sentiamo la voce dei convocati. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Prima di tutto devo fare dei complimenti un po' a tutti voi della trasmissione, eccetera. Grazie. Ma è un parere semplicemente di una persona che, avendo giocato a calcio, ha capito bene o male le strutture delle varie società, perché chiaramente c'è delle società italiane che si stanno portando a livello competitivo di quelle inglesi e di quelle diciamo tedesche, forse un paio, e quelle spagnole che sono poi due e mezza, diciamo, 2/3, 2/3. Esatto. Comunque il punto è questo: ogni persona esprime la sua opinione in base a quello che è consono, però i dati sono questi, che nella struttura Inter c'è un'evoluzione pazzesca, no? Come quella del Milan adesso, però il Milan ha avuto meno difficoltà di entrare in un meccanismo di gioco che non l'Inter, perché l'Inter era stata presa tempo fa dal Mancini prima del triplete, che ha messo le basi per il triplete, sì, giustamente. E Moratti logicamente ha detto: mi devo inserire in questo contesto e dare la possibilità di fare una squadra competitiva, e allora ha chiamato. Però non ho capito come mai hanno cambiato allenatore, modulo e tutto in poco tempo, perché ci sono state una grossa confusione. C'è stata una grossa confusione, dettata anche dalla confusione societaria, dettata anche dal fatto che i rapporti tra Mancini e Toira si erano rotti già sul finire della scorsa stagione. È una decisione che ha preso Toira, che ricordiamo è presidente di minoranza, 30% delle quote, che sta per cedere. Ha scelto De Borra, la scelta è stata sbagliata, ora è stato posto un rimedio. La leggo così, in maniera semplicistica, se volete, la situazione. Alessandro? No, Alessandro è scappato. C'era un altro ascoltatore che è scappato pure lui, ma adesso torna. Io saluto Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, Cristiano Ronaldo sposa il Real de Madrid per altri 5 anni, quindi praticamente fino al termine della carriera, salvo code in posti esotici. Leggo anche di uno stipendio, sponsor compresi, sugli 80 milioncini di euro all'anno. Filippo. È il grande colpo di Florentino Perez questo, perché uno dice: no, io Florentino non ha lesinato commenti anche feroci nei confronti della sua stella, diciamo, più fulgida, però improvvisamente gli rinnova il contratto per 5 anni, no? E uno dice: porca miseria, perché poi a quelle cifre, 20 milioni netti, no? Quando nel 2013 aveva fatto una fatica bestiale a rinnovarlo, no? Perché lì ancora era in ballo una questione sportiva. Qui io, quando ho visto quel contratto, ho detto: ma qui c'è qualcosa, no? che non torna, o che ci spiegheranno qualcosa. E 2 giorni dopo abbiamo capito perché è stato rinnovato quel contratto a quelle cifre, perché Ronaldo lascia ancora nelle casse del Real Madrid il 50% di ogni altro introito che riceve, e siccome riceve continuamente, diciamo, milioni di qua, milioni di là, basta con questo il contratto poi firmato con la Nike, che più o meno paga l'ingaggio di Ronaldo, già solo questo. Ed è per me questo è il colpo, diciamo, migliore che ha fatto Florentino Perez. Sì, perché Cristiano Ronaldo comunque ha lasciato una parte dei suoi diritti di immagine al Real Madrid. Il 50% al Real Madrid. Quindi, cioè, con questo, voglio dire, se lui adesso, io, attenzione, io faccio sempre una postilla, di queste cifre noi cerchiamo di arrivare più vicini alla verità possibile, però in realtà secondo me diciamo la categoria qua si ferma sempre molto lontana, a meno che non intervenga, no, Football Leaks a darci una mano. Certo. Però, cioè, ci fidiamo di quello che si riesce un po' a carpire di qua e di là. Se si parla di 20 milioni netti per l'ingaggio di Ronaldo al Madrid, si parla anche di una, diciamo, un ingaggio che va dai 20 ai 40 milioni a seconda delle vendite, sempre all'anno, della Nike a Ronaldo. In questo caso la metà va a Real Madrid e poi ci sono tutti gli altri sponsor. Certo. Per cui il giocatore in sé al Madrid non costa niente, anzi, se uno pensa alle magliette che vendono, lui, Ronaldo, vende il 40% delle magliette del Real Madrid, cioè non le vende lui, nel senso quelle col nome Ronaldo, certo, rappresentano il 40%. Il ragazzino medio vuole la maglietta con scritto, esatto, Ronaldo dietro. Tra 80 e 100 euro a botta, possiamo immaginare, no? Fai due conti. Esatto, per cui adesso che Ronaldo non segni, in realtà è un falso problema, è un problema perché deve giocare lo stesso e allora magari se non funziona diciamo rovina i piani della squadra. Però dal punto di vista commerciale è, come si può dire, è un punto, una questione minore, non so. Sì, è chiaro. Cioè, è il primo, io l'ho definito il primo grande accordo commerciale, cioè questo non è un accordo sportivo, è un accordo commerciale. Certo. Perché poi l'altro giorno Florentino l'ha anche detto, io ero lì lunedì al Bernabeu, dice, è la nostra icona, praticamente dice, sono contento che sia legato con noi per la vita. Perché loro, l'idea è il Michael Jordan, cioè Michael Jordan si è ritirato, sì, 13 anni fa, sì, e continua a guadagnare un sacco di soldi ed è comunque legato ai Chicago Bulls, nonostante finito la carriera, no, da altre parti. Ah, e Ronaldo, esatto, no, Ronaldo sarà sempre, cioè quello che vuole Florentino, che comunque Ronaldo sia sempre legato al Real Madrid. Cristiano Ronaldo è un'azienda, così come lo è Messi, esatto. Sì, si tratta di si tratta di un accordo tra due multinazionali. Esatto. Nel quale accordo il calcio c'entra relativamente, sì, insomma. Relativamente. Poi è chiaro, se lui voglio dire, attenzione, adesso io sono sempre stato abbastanza critico, no? Quest'anno, adesso l'inizio di stagione di Ronaldo è pessimo. Però intanto comunque in questo 2016, che non è stato granché positivo, si è portato a casa una Champions, un europeo e probabilmente il quarto pallone d'oro. Pensa se era positivo. Lì si discute sul fatto che il pallone d'oro l'abbia vinto con tre partite, no? Una con la Roma, una col Bosco, e una con l'Ungheria, col portiere di 40 anni con la tuta. Però sì. E intanto diciamo, comunque lui porta a casa questi tre trofei in un anno che non è andato benissimo. Insomma, io ti sono, ripeto, un grande penso ammiratore, devo dire, bene. Guarda. Senti, guarda, leggo sul tuo giornale, la Gazzetta dello Sport, oggi ampie digressioni di mercato, c'è Real Madrid che sta guardando con interesse Dybala, la Juve deve stare attenta. Sì, ma il Madrid però è squalificato, però. per due mercati no, finora non può operare, poi si potrà operare, vedremo, però il mercato al momento è chiuso e anche per questo... Se vogliamo torniamo al discorso di prima, no? Adesso la Madrid ha firmato, questo è il quarto rinnovo, no? Hanno firmato Lucas Vazquez, Kroos, Modric e ora Ronaldo, perché comunque se non puoi comprare almeno che non te li portino, certo, via, o comunque certo, rimanere con gli stessi, certo. Per cui Dybala, io in realtà chi è stato molto vicino è stato il Barcellona, perché Ariel Braida aveva lavorato bene e poi da Barcellona non hanno creduto in Dybala e se lo sono fatti portare via dalla Juve, questo te lo posso dire con assoluta certezza. Adesso è diverso, il Madrid vediamo cosa decide la FIFA, no? Per ora sono squalificati, poi dopo sono anche operazioni abbastanza lunghe, cioè su giocatori, sì, di questo tipo che sono una sorta, multinazionale, Cristiano Ronaldo l'ha già messi pure, Dybala potrebbe diventarlo, quindi sono anche accordi che partono da lontano. Intanto sì, aspettiamo. Comunque, intanto aspettiamo. Solo una cosa, cara. Poi comunque il Barça si è preso Arda Turan anche da mercato chiuso, lasciandolo fermo 4 mesi per poter farlo giocare. Può permetterselo. Quindi, evidentemente queste squadre possono permettersi ciò. Più che Spagna-Macedonia, che non mi sembra una roba di grande interesse. questa notte 0:45 ora italiana, credo anche spagnola, non so quale sia. Sì, uguale, se, uguale, ora legale, ora solare. Brasile-Argentina, che partidazzo, che pochi si vorranno perdere a costo di fare le due passa, Filippo. No, questa è una bella, perché attenzione, sono delle dobbiamo inquadrarla bene. L'Argentina non ha mai vinto in Brasile. Cioè, questo diciamo quando c'erano dei punti di mezzo, e questo già mi sembra un numero, no? Più che sufficiente. E adesso l'Argentina in questo oggi è fuori dal mondiale e ha bisogno disperato di vincere, e comunque non deve perdere, perché poi la settimana prossima gioca in casa con la Colombia. Sì, quindi sì. La situazione e poi c'è questa, è la prima sfida da tre punti tra Messi e Neymar, no? Che è anche un altro tema carino. Si può essere amici tra brasiliani e argentini? Loro dicono di sì, io non ci credo tanto, però finché Neymar fa il vassallo la cosa va avanti. Io non ci crederò mai, perché tra brasiliani e argentini amici non si può essere, così come tra pisani e livornesi, però insomma, diciamo che si conoscono. Phil, ti ringrazio. A voi, ciao. Alla ciao, prossima, caro, ciao Filippo, ciao. Maria Ricci. Allora, torno ai convocati, 800 24 00 24. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, ma che ce ne importano l'Argentina a Brasile? Fatti Balotelli, Cruciani c'aveva ragione, perché il signor Ventura deve dire la verità, non è che dice solo quello che gli conviene, perché contro la Spagna, quando non ci ha capito niente per un'ora, la Spagna ci ha fatto della palla un'ora, e questo me lo chiamo un grande tecnico, tu. Dopo un'ora se ne è accorto che doveva muovere qualche cosa. Per un'ora abbiamo visto solo giocare noi. Sì. Poi fatti Balotelli, quando è andato in Brasile, è inutile che Buffon butta tutta la coppa su Balotelli, abbiamo fallito là, è stato un fallimento. Tutti quanti hanno, cioè Balotelli è stato, scusa, il capro espiatorio di quella situazione. Scusate un attimo, sì. Ma sono spogliatoio e tutti quanti uniti. Che ci mettevano a chiappare Balotelli in Brasile, metterla al muro, dice, ma che dobbiamo fare qua? C'era bisogno che ritornavano qua per farci sapere quello che aveva fatto Balotelli là? Sì, non è il discorso di quello che aveva fatto Balotelli là, il discorso è che è diventato il capro espiatorio dell'intera situazione e praticamente la carriera di Balotelli si è interrotta dopo il Mondiale del Brasile. Adesso sta ricominciando. Quello che penso io è che un giocatore di così grande talento, se riga dritto, insomma, io sono per convocare in nazionale tutti quelli eleggibili, a prescindere dai passaporti, che sono validi, quindi sono favorevoli agli oriundi, e penso che debbano essere convocati i giocatori più funzionali e che hanno maggiore talento. Adesso facciamo un'altra digressione, sentiamo, uno dei casi della settimana è stata la grande accusa di Jasmine Repesa alla sua Milano, in particolare ai giocatori, un duro attacco dopo la vittoria risicata contro Torino. Questa sera torna all'Eurolega, dove l'Olimpia è stata battuta nelle ultime tre partite, è una partita da vincere assolutamente al Foro contro l'Efes Pilsen, squadra turca. Sentiamo Repesa pre-partita. Dobbiamo stare là, attenti, non permettere canestri facili. Tutto l'altro sono caratteristiche individuali, dove sono bravi, sistema di gioco, dove possiamo fare bene uguale, ma di nuovo attenzione, 40 minuti, concentrazione e difesa, altissimo livello, prima di tutto aggressività, è la cosa che farà differenza. Stamattina ho incrociato per puro caso Claudia Angiolini, mia carissima amica di Sky Fox. Andrea Meneghin non l'ho incrociato, ma ce l'ho ora al telefono, e con un altro mio grande amico Jerry De Rosa questa sera si siederà a bordo campo per raccontare su Fox Sport 20:45 questa partita cruciale, io credo, per Milano, per molti motivi, non solo perché il girone non si è messo benissimo, ma anche perché le parole le pietre lanciate da Repesa dopo Torino non possono non pesare. Studio con Nicolò Tregari e Ugo Sconocchini, ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti, tutto sì. Bene? Sì, partita difficile per Milano oggi, anche perché l'Efes ha fatto il percorso inverso di Milano. Milano ha vinto le prime due e perso le ultime tre, invece l'Efes ha perso le prime tre e vinto le ultime due. Sì. Quindi è una squadra che sta ritrovando un po' il piglio, è una squadra che gioca in maniera molto particolare. Sono ottimi rimbalzisti, prendono quasi 39 rimbalzi a partita, di cui 16 in attacco. e hanno delle individualità spettacolari, c'è Ortelle, c'è Honeycutt, c'è Brown, c'è Thomas, e sono giocatori che si possono accendere in un attimo. Milano non sta vivendo ovviamente un bellissimo periodo, complice le tre sconfitte in Eurolega, in campionato non ha rivali, e poi l'ultimo sfogo di Repesa è andato un po' a colpire i giocatori virgolettati come Lazzaroni in difesa, che tengono dritte le gambe. È un atteggiamento che a Repesa non piace assolutamente. Lui ha cercato in tutti gli anni che ha allenato di dare la propria identità, e vedere, secondo me, anche chiunque vede una squadra così forte che si risparmia in difesa per poter pensare poi solamente all'attacco, cosa che poi alla fine della fiera Milano ha vinto la partita, quindi problemi non ce ne sono. No, problemi non ce ne sono, però Repesa li legge in controluce. Ieri, guarda, ne parlavo con Marino Bartoletti, lui dice: a me non è piaciuto questo sfogo pubblico, perché tu vai in spogliatoio e dici quello che vuoi, quindi io ti chiedo, torna un attimo il grande giocatore che sei stato. Dopo parole così del tuo allenatore, che cosa provi, che cosa pensi, che cosa senti? Secondo me era fatto molto ovviamente per creare una reazione, anche perché Repesa è molto attento su questi aspetti del fatto di mantenere chiuse le cose che non si possono dire in spogliatoio. È stato uno sfogo proprio per cercare di far capire, ci avrà provato in tutti i modi secondo me in spogliatoio e in allenamento a far capire che chi non difende non gioco, sta seduto, cosa che fra l'altro lui fa anche durante la partita, perché gestisce molto bene i giocatori, quelli che non vanno li cambia, è semplicissimo, basta cambiarli e tirare fuori e mettere qualcuno che difende al posto loro. Però secondo me è proprio anche per dare una reazione, uno stimolo in più a questi giocatori che a sua vista, a suo modo di vedere la pallacanestro, non danno quello che potrebbero dare, semplicemente sì, questo. Sì. Uno dei grandi indiziati è Gentile, che certo non ha avuto un inizio di stagione. Guarda, io dico, tutti parlano di Gentile, che è il principale indiziato, lui ha anche ironizzato con tutta quella foto che poi l'hanno paragonato a Balotelli. È una cosa che ha fatto secondo me per stemperare, poi non è solo lui, cioè lui ha fatto così per giustamente come scherzo, però sono tanti giocatori, ha detto lo stesso Repesa che non ha fatto nomi ovviamente nello sfogo, però sono secondo me diversi giocatori che non hanno questo atteggiamento difensivo. Quindi tu aspetti una reazione? Sì, si aspetta una reazione da giocatori che secondo me lui reputa dei campioni, sono giocatori che sono di primissimo livello europeo, quindi se punzecchiati nella maniera giusta poi in campo sapranno dare meglio, e Repesa sa dell'importanza della partita di questa sera, perché può cambiare la tendenza del cammino in Eurolega, può far ritornare in proiezione playoff, anche se voglio dire siamo alla sesta giornata, quindi di tempo ce n'è, non è che sia un ultimatum questa partita, però per tanti piccoli segnali di ripresa e soprattutto di migliorare quella difesa che concede 95 punti a partita, che sono davvero troppi. Sono un'enormità. Andrea, grazie, ti sento stasera. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Andrea, ciao, un abbraccio. Io chiudo la puntata con Giampaolo che chiama da Latina, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io volevo parlare riguardo a Balotelli, di quell'argomento che trattavate prima. Allora, sembra, io vi ascolto da tanto tempo, sì. Ho grande rispetto di voi, di Carlo Argenta, di Cruciani, che mi ha avvicinato alla radio come il Papa mi ha avvicinato alla Chiesa. Addirittura. Adesso vado lì e glielo dico. Capito, grazie. Ecco, volevo dirvi, non ci dimentichiamo di chi è Balotelli, di tutto quello che ha combinato, perché io sto guardando le partite del campionato francese, guardo il Nizza, vedo calcio da 30 anni più o meno, e quindi qualcosina mi innervosisce il fatto che Balotelli tecnicamente è un mostro, mette la palla dove vuole lui, con un po' di fortuna ma con tanta classe. Il problema è che non suda, ancora oggi lui non suda in campo, e vedere Mandzukic a 30 anni fare quello che ha fatto domenica con il Chievo, e Balotelli che ancora non suda, forse Ventura, che è una persona di campo, esperto e intelligente, si riferisce proprio a quello. A me non basta che tu metti la palla nell'angolino. Ho capito, è un discorso lunghissimo iniziato da Mourinho, cioè Balotelli è anche un istintivo, è uno che certi movimenti non è proprio capace di farli, soprattutto in fase difensiva, però è anche uno che la sbatte dentro. Allora decidiamoci, è chiaro che non avremo il giocatore perfetto, però abbiamo un giocatore che ha un enorme talento offensivo. Ora, in un momento storico in cui c'è Belotti che sta facendo cose straordinarie, che è ormai titolare fisso di questa nazionale, ce ne sono degli altri che possono emergere. C'è Pellè che è in castigo in Cina e quindi è là in punizione. Ma io direi che si debba seguire con attenzione Balotelli, ma anche Giovinco, perché molti ascoltatori hanno ragione, lo scrivono via SMS, lui stesso l'ha detto, in Canada sta facendo grandissime cose, non vorrei che questo fatto di giocare all'estero possa anche penalizzare, come già successo in passato, i giocatori italiani. Io sono per una nazionale in cui giochino i più forti. Riprendiamo domani il discorso, ragazzi. Adesso abbiamo finito. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Bise Falzoni in redazione. Ciao a tutti. Have a nice day.